Senti, invece volevo farti una domanda, non si può non fartela sui pugni in tasca. Io l'ho rivisto qualche giorno fa e ancora oggi sembra un pugno nello stomaco, veramente devo ammettere. La domanda che ti volevo fare era, dal tuo punto di vista, secondo te che cosa ha rappresentato per la tua generazione? In senso lato, non sto parlando dei registi, questa opera prima di Marco Bellocchio è ovviamente tua perché tu sai, hai fatto il montaggio. Io non ho fatto il montaggio del pugno in tasca soltanto e mi sono rifiutato di mettere montaggio di Silvano Mosso, ho messo montaggio di Aurelio Mangiarotti che era un muratore di Parigi, mio amico, e quando ho finito di lavorare i pugni in tasca da solo, ho telefonato al mio amico muratore e gli ho detto: senti, ho finito un film che farà un grande clamore. Quindi tu eri già consapevole. Ma certo che ho scoperto. Certo che lo consapevo, ma tu non puoi immaginare Infatti, te lo sto che chiedendo flusso perché. di creatività. Ma scusa, io voglio molto bene a Marco e proprio perché gli voglio bene tendo a dire la verità sui pugni in tasca. La verità io l'ho detta in una lettera aperta a Marco che trovi in internet, cercala. La trovi probabilmente nella mia. Sul tuo sito. No, sul mio sito no, sarebbe un po' volgare mettere sul mio sito. La trovi Vabbè, comunque No, aspetta, poi home page, aspetta. Perché non l'ho fatto io, Silvano Agosti. Voglio vedere se c'è home page. Home page, ecco, aspetta. Che non c'entra niente col mio sito. Questo homepage l'ha fatto il mio amico scienziato che è andato a decidere. Ecco, vediamo un po'. Non sono interessato anch'io a vedere se c'è. Eccola qua. Lettera aperta a Marco Bellocchio, all'amico Marco Bellocchio. Locarno 18 agosto, Questa è la 14 lettera del 98. agosto del 98. Che cosa ha rappresentato i pugni in tasca per la tua generazione? Perché è stato Mi devi così promettere che questa traumatico? lettera la leggi e la citi integralmente, Va bene, tanto è una pagina. la metto sul. Va bene, ok. Capito? No, soprattutto adesso che Marco prende il leone Sì, d'oro, che io sì. voglio che sia. No, ma nel senso che mi fa ridere l'idea che non ci sia in Italia una mente che dica, allora, 1967, i 66, i pugni in tasca. 1967 la Cina è vicina. Confrontiamo l'autore dei Dei pugni in pugni in tasca tasca con con l'autore della l'autore Cina del vicina. Sono due esseri remotamente lontani, abissalmente lontani. Sono due film che non hanno niente a che spartire l'uno con l'altro. Perché? Il perché lo capirai leggendo questa lettera, dove io credo di aver risolto l'enigma. Perché è stato così importante per la tua generazione quel film? Voglio che tu lo Per spieghi la a mia chi generazione non come ha, me non ha vissuto quegli secondo me, tanto una cosa è l'importanza che Pugni in tasca ha avuto per me e una cosa è l'importanza che ha avuto per la mia generazione. Infatti, ti ho fatto la domanda sulla tua generazione. Ma se la mia generazione si trovavano improvvisamente di fronte a un film vero, di fronte a un film che non titillava la verità come i vari Visconti, o come anche che la abbellivano, così un po' nascondendo, c'è il film Gattopardo dove c'era la nobiltà, che sì, aveva i suoi difetti, però era anche affascinante, poi i lustrini, poi il ballo, poi l'amore, tutta questa cosa qui non c'è nei pugni in tasca. Nei pugni in tasca c'è la ruvida, potente carica che ha la verità. Ed è rimasto in questo senso l'unico esempio di cinema italiano capace di ciò, insieme vorrei dire a Martina Slegare. Che anche Martina Slegare, per esempio, sai che io ti faccio un esempio che cito sempre, il Pugno in Tasca, io ho impiegato 26 giorni a montarlo, mentre Marco girava io montavo, quindi eravamo a distanti 600 km l'uno dall'altro, perché io non ho mai voluto gli autori mezzo al montaggio, anche perché insomma io ho sempre vissuto un sentimento di immenso stupore da parte di un autore che fa montare il suo film a un altro, non significa secondo me niente. Ma Marco invece aveva una profonda fiducia nella nostra amicizia, la nostra amicizia è un'amicizia amorosa, e quindi io non ho montato il film di Marco come Silvano Agosti, ma come l'avrebbe montato, come l'avrebbe montato Marco se fosse stato capace di farlo. E quindi lì c'è un grande mistero, e diciamo che Pugno in Tasca è un manuale di montaggio molto potente, che viene fuori anche dalla mia esperienza russa, ci sono delle analogie molto grandi nel ritmo, nei ritmi di Pugno in Tasca con i ritmi di Eisenstein, per esempio. Capisci, li ho riconosciuti. Capisci? E poi ci sono delle libertà innovative molto intense, come quando buttano i mobili dalla finestra, che continuano, siccome è una sequenza liberatoria, continuano a uscire e non entrano mai nella stanza dal punto di vista del montaggio. Continuano a buttare, a buttare, a buttare, e non c'è la conseguenzialità del rientro a prendere altre cose, capisci? Quindi penso che sulla mia generazione Pugno in Tasca sia stata un'iniezione di un'eroina che non faceva male, ma faceva al contrario bene. Aveva la stessa devastante, straordinaria intensità, probabilmente di un flash da droga, ma benefico, non malefico. Però sai, per un Pugno in Tasca che stenta ad uscire, perché fu intanto bocciato dalla commissione degli idioti di turno, che era la commissione... La commissione di Venezia, parlo di gente che poi è diventata il Goethe della critica italiana e che ha espresso la sua ignoranza assoluta, perché noi facciamo vedere il film senza i rumori, gli effetti speciali dei rumori, la porta, i passi, e senza la musica che io stavo concordando con Morricone e che ho montato io dopo. E quando loro hanno visto un film senza il rumore dei passi, senza la musica, hanno detto a Marco: buttalo questo film, fa schifo, non vale niente. Mi ricorderò sempre questa frase: fai fare brutta figura a tuo fratello che è intelligente, virgola, quello che ha inventato i quaderni piacentini. Per cui immaginati un po'. Queste sono le cose che io ricordo, e credo che ancora oggi e per sempre I Pugni in Tasca sia l'unico film laico, cioè non cattolico, che si è fatto in Italia. Persino La Terra Trema è un film cattolico, persino tutti i film di Fellini sono film cattolici. Non esiste, non parliamo di Visconti, che diceva di essere comunista, però insomma, molto religioso. No, io non credo che un cattolico sia religioso. Vedi come ti escono a fiotto i cliché che ti vengono dati dalla scuola. Non esiste. Anzi, se posso fare una digressione, il film di Nanni Moretti ha questo grande privilegio, grande qualità, come io gli ho scritto in una lettera che gli ho mandato, che c'è nel mio sito, fra l'altro puoi trovarla, è l'ultima che c'è nel mio sito. Il film di Moretti ha questo merito, che proprio ti ha fatto capire che la Chiesa Cattolica ha tutta una serie di infinite caratteristiche, meno la religiosità. Non c'è religiosità. Non c'è spiritualità, non c'è... Non c'è questo afflato di mistero che c'è per esempio nel bambino di 2 anni che parla da solo con qualcuno che non si sa chi è. Sì.